morso e fuga. Mi sporco di fango, catrame di ruggine. Istinto mi spinge a un sole che mi asciuga a un metro dalla grandine. Qualche volta da qualche signora che altro animale non ha, chiusa l'ennesima porta c'è la strada e lei che dietro chiamerà. E fra un po' si torna in calore, lo sai, che per qualcuno è comodo, c'è una cucciola su un padrone.